si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati in diretta, staremo insieme sino alle 10, vi ricordo subito, intanto, come abbiamo già fatto in apertura alle 7.35, la nostra parola chiave per giocare con noi al contest Inviati Cercasi di questa settimana, la parola chiave è spreco. Sapete che questo è uno dei grossi problemi di oggi, costa alle nostre tasche di cittadini lo spreco, costa all'ambiente, ma e quindi in termini di rifiuti poi costa anche alla collettività. Allora tutte le iniziative che conoscete di recupero di abiti, cibo, medicinali, recupero energetico, tutto quello che volete, avete tempo per scriverci sino a mercoledì alla nostra mail si può fare @radio24.it. Il racconto più bello lo sentiremo in onda sabato prossimo, oggi sentiremo tra un'ora circa il racconto per quanto riguarda l'ambiente di cui avevamo chiesto settimana scorsa, ma adesso andiamo ad iniziare. And now the good news. La buona notizia per partire quest'oggi è in realtà un appuntamento da ieri, 16 maggio fino a domenica, 18 maggio a Palermo, al giardino inglese della città, torna la festa di Addio Pizzo, un appuntamento importante, bisogna andare, sostenere, partecipare, farsi vivi, quantomeno farsi un giro in queste belle giornate nel giardino inglese di Palermo, dove convergeranno tutte le associazioni che sostengono insomma le iniziative importanti anti-racket di Addio Pizzo. Ricordiamo che sono 878 i negozi, ce lo ricorda Addio Pizzo, e le imprese che hanno aderito al comitato che dice appunto no a pagare insomma la percentuale alla mafia, 184 le scuole coinvolte nella formazione anti-racket. Insomma, appuntamento fino a domenica a Palermo per la nona festa di Addio Pizzo. E questa era un po' la buona notizia da cui partire oggi. Vi ricordo che più avanti invece parleremo di un'altra notizia di settimana, la proposta di istituire un servizio civile universale nazionale. Vedremo se davvero, come appare sulla carta, è un'iniziativa nella quale alla fine conviene a tutti. Intanto però sui giornali di oggi ancora qualche spunto. Avevo lasciato citando la decisione di Moretti di non incassare la buona uscita dalle ferrovie prima dell'ingresso in Finmeccanica, perché lui dice il mio datore di lavoro resta sempre lo stesso, lo Stato, quindi rinuncio alla buona uscita. E non è cosa da poco, perché il conto lo fa la Stampa di oggi, le buone uscite dei manager che sono appena cambiati ci costano un totale di 22 milioni di euro, e non è poco. Scaroni dell'Eni ha incassato una buona uscita di 8 milioni di euro dopo credo due mandati. Cattaneo era a Terna, ha incassato 2,4 milioni. Panza Finmeccanica 5,4. Flavio Conti all'Enel 6,4 milioni di euro. È il mercato, si dirà, sono le regole del mercato, quando un manager abbandona la società prima del tempo o comunque ha delle clausole che prevedono questo, però in tempi di crisi del mercato, dell'economia come questi, ma soprattutto di crisi per quanto riguarda le possibilità di spesa dello Stato, beh insomma rivedere alcuni di questi diritti acquisiti non sarebbe stato male. Volete un esempio su tutto? Gli esodati, beh, per loro i diritti sono stati rivisti, oppure quando vengono fatte le riforme delle pensioni si sono diritti acquisiti anche quelli, però poi cambiano perché cambia il tempo. Va bene, naturalmente ci sono nell'articolo della Stampa le proteste delle associazioni dei consumatori che parlano di buone uscite scandalose. Invece per quanto riguarda, un'occhiata anche al Sole 24 Ore, va? Titolo naturalmente relativo a questioni economiche. Ecco tutte le norme bloccate, scrive il Sole di oggi, che potrebbero spingere il PIL. Già, questo è un altro problema. La mancata attuazione delle leggi Monti-Letta ci costa 5 miliardi. Dai pagamenti delle pubbliche amministrazioni al bonus ricerca, la deregulation, la trazione degli investimenti esteri, ecco che l'attuazione o il varo di norme annunciate può valere alcuni decimali di spinta di PIL. I soli ritardi relativi ai provvedimenti del governo Monti alle semplificazioni di Letta valgono, calcola il Sole 24 Ore, 5 miliardi di euro. E scusate se è poco. Un'altra notizia del genere ce la ricorda Repubblica, e anche qua viene da mettersi le mani nei capelli. L'Italia rischia di perdere 42 miliardi di euro di fondi europei. Ma com'è possibile? Ce lo ricorda il rapporto Svimez, secondo il quale spendiamo troppo lentamente eppure male. L'Italia da sempre ha difficoltà nell'investire i fondi strutturali che l'Europa destina alle regioni più povere dell'Unione, ma anche quando i progetti superano l'esame della Commissione europea, i fondi arrivano, i piani decollano, i risultati ottenuti però sono più scarsi che altrove. E in prima pagina su Repubblica di oggi si ricorda che a rischio ci sono appunto 42 miliardi di euro di fondi europei. Repubblica in prima pagina si incarica però di ricordarci anche un'altra notizia importante. Guardiamo un po' anche fuori dai confini. Ci sono state le elezioni in India, ci sono i risultati definitivi. In India il trionfo dell'Hindu che cancella l'era Gandhi. Vediamo un po', perché insomma non è che stiamo tutti i giorni a guardare quello che succede in India, però ogni tanto un'occhiata non fa male. Sarà il secolo indiano, dice il populista Modi, che trionfa alle elezioni e spazza via i Gandhi. Il suo partito conquista la maggioranza assoluta dei seggi. Sonia Gandhi dice: colpa mia, e la base invoca la figlia Priyanka. Leggiamo: qualcuno tra i fan in delirio sventola il titolo dell'edizione speciale di Hindustan Times, che dice Tsunamo. È l'acronimo di Narendra Modi, è giocato col termine tsunami, no? Il prossimo premier di 1.200.000.000 di indiani che hanno dato al suo partito, il Bharatiya Janata Party, spero di aver pronunciato bene, e a lui come prossimo premier la maggioranza assoluta senza bisogno di aiuti esterni. Non succedeva da 30 anni, cioè da quando al congresso della dinastia Gandhi, oggi letteralmente spazzato via con meno di 50 poltrone nel Parlamento, ottenne 400 seggi. Per non creare disarmonia nel giorno del giubilo, il neo premier in pectore ha subito usato toni concilianti. Ho sempre detto che governare la nazione è nostra responsabilità, accogliere tutti. Poi ha detto: il 21esimo secolo, questo tanto per iniziare, sarà il secolo dell'India, supereremo la Cina e gli Stati Uniti nella, come palma di potenza mondiale. E questo è il modo in cui si presenta Modi, appunto il populista nazionalista che fa riferimento anche insomma, alle frange più integraliste, più estreme della religione indù in India. Però, scrive Repubblica, nonostante la sua cattiva fama, le concessioni di Modi ai fondamentalisti religiosi sono state pochissime. Il manifesto elettorale presentato ad aprile è in gran parte dedicato alla nuova politica di apertura agli investimenti internazionali. Insomma, mostra un po' la faccia del nazionalismo indiano, poi però si apre agli investimenti internazionali. Questo Modi in India. Adesso invece dal qualche altro titolo di qualche altro giornale. Vediamo intanto il Fatto Quotidiano, che ci ricorda Rai 320 milioni per mantenere le 17 sedi regionali. Le strutture che producono i telegiornali regionali occupano superfici pari a 148.000 metri quadri, l'equivalente di 21 campi da calcio. Sapete che c'è già un provvedimento allegato al decreto IRPEF, un taglio da 150 milioni di euro per quanto riguarda la Rai, voluto dal governo Renzi. Però sembra che in commissione, in Parlamento, ci siano già stati fatti una serie di emendamenti per scongiurare questi tagli. C'è chi difende l'azienda del servizio pubblico per vari motivi, però appunto il fatto è questo. Allora, leggiamo alcuni dei lussi o presunti tali che riguardano le sedi regionali della RAI. 1 milione di euro per puntellare il palazzo di Catania da 1.000 metri quadri. A Genova ci sono 110 dipendenti in un palazzo di 11 piani, cioè 10 persone a piano. A Venezia lavorano in 112 in un palazzo, Palazzo Labia, con gli affreschi del Tiepolo, valore di oltre 40 milioni di euro, e così via. Tutto un circuito con che costa 320 milioni di euro, le sedi regionali, appunto 180 milioni di questi solo per garantire lo stipendio ai 20.000 tra giornalisti, dipendenti, dirigenti e tecnici. I telegiornali del TGR Rai, le tre edizioni locali, fanno però uno share tra il 12 e il 16%, che non è poco. Quindi giudicate voi se è giusto o non è giusto in caso tagliare. Altro titolo da un altro giornale, Il Giornale, che si occupa di Grillo. Quando Grillo da me si faceva pagare in nero, un impresario ha rivelato, mai smentito, dei tanti soldi dati al comico in contanti. I vizietti dei moralisti. Ma l'altro titolo capolavoro, secondo me, del giornale di oggi è questo: Londra conferma, fu un colpo di Stato, il complotto contro Berlusconi. Uno legge il titolo e dice, beh, ci sarà una dichiarazione di qualche politico, di qualche istituzione, autorità inglese che conferma il complotto. E invece la notizia è questa: quello contro Berlusconi e l'Italia fu un colpo di Stato. A scriverlo è Ambrose Evans Pritchard, uno dei maggiori analisti politici ed economici internazionali, in un articolo pubblicato sul prestigioso The Telegraph, cioè un giornalista che è un analista che dice la sua, e il titolo è Londra conferma fu un colpo di Stato. Vabbè, Il Manifesto invece scrive così: la posta in palio, e la notizia è l'annuncio di ieri del governo Renzi di mettere in vendita il 49% credo di Poste Italiane. La posta in palio, titolo del Manifesto: in affanno per il tonfo della ripresa, il governo mette all'asta un altro pezzo di servizio pubblico, al via la privatizzazione delle Poste e dell'ENAV per fare cassa contro il debito. Mentre oggi a Roma scende in piazza da tutta Italia una nuova alleanza in difesa dei beni comuni, casa, ambiente, acqua, cultura. Un'ultima notizia però ve la devo dare, ed è una buona notizia, viene dal Corriere della Sera, se resto, se non ve le diamo noi le buone notizie, chi ve le deve dare? Siamo nel mondo quasi più longevi, cioè in Italia la speranza di vita è quasi la più alta nel mondo, cioè nonostante, scrive il Corriere, il pessimismo imperante in Italia, si conferma il nostro paese quello nel quale si vive più a lungo. A certificarlo sono i dati del World Health Statistics, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo il rapporto, le bambine nate nel nostro paese, le donne, quindi nel 2012, hanno una speranza di vita di 85 anni, i bambini di 80 anni. Siamo, per quanto riguarda i maschi, dietro soltanto all'Islanda, la Svizzera e l'Australia, cioè siamo al quarto posto per speranza di vita nel mondo. La spiegazione, secondo un esperto di geriatria, è come sempre quello della dieta mediterranea, ma non ci buttiamo giù, perché contano anche le politiche sanitarie iniziate 20-30 anni fa nel nostro paese di prevenzione, con l'attuazione degli screening per la diagnosi precoce dei tumori. Cioè in Italia si fa una prevenzione con la medicina di base importante, ci viene riconosciuta a livello internazionale, quindi prima di sparare cavolate al bar con gli amici sulla sanità che non funziona in Italia, pensiamoci bene. 800 24 00 24 per intervenire in diretta tra pochissimo, parliamo di servizio civile universale nazionale dopo la pausa. Si può fare cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati, aspettiamo i vostri interventi in diretta. Oggi, come tutti i fine settimana, aspettiamo le vostre chiamate per raccontarci che cosa, per esempio, ha reso più bella la vostra settimana, e anche oggi mettiamo in palio, oggi questa settimana, i biglietti per andare al cinema a vedere il film Maps to the Stars di Cronenberg nei cinema del circuito UCI Cinema. Dunque chiamateci, tra poco parliamo anche della proposta arrivata in settimana di istituire un servizio civile universale nazionale da affiancare a quello militare. Il servizio civile, rivolto ai giovani che lo richiederanno, potrebbe essere sì un modello nel quale tutti vincono, perché vincono le associazioni del terzo settore che ne usufruiscono per le loro iniziative di aiuto ai poveri, ai bisognosi, agli anziani, ai disabili. Vince anche lo Stato, che garantisce così un welfare senza costi aggiuntivi, e i ragazzi tra i 18 e i 29 anni, per i quali si dice questa esperienza di un anno o anche 8-9 mesi è molto formativa sul piano professionale. Tutti d'accordo? Dunque vedremo. Intanto una discriminante importante è quanto verrà riconosciuto di stipendio ai giovani ragazzi che faranno servizio civile nazionale, quali associazioni nel terzo settore potranno beneficiarne. Ne parliamo tra poco con un ospite. Te lo immagini se un giorno tutti quanti a rifiutare uno stage pagato zero, un lavoro che non è vero? Te lo immagini che facce i datori di lavoro quando scoprono che più nessuno è più disposto a lavorare gratis. Oh, l'abbiamo presa così subito, con ironia, affrontando il lato debole di questa che potrebbe essere una buona notizia, quella del servizio civile universale nazionale, perché insomma i più maligni dicono sì, però si fanno lavorare gratis sostanzialmente questi ragazzi. Vedremo se è proprio così. Il nostro ospite con cui commentare questa notizia è Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore. Buongiorno Barbieri. Buongiorno a voi. Allora, intanto io direi di partire da quella che è la situazione attuale, perché noi abbiamo in memoria quando c'era la leva obbligatoria e il servizio civile era pure un'alternativa però obbligatoria. Da quando la leva militare è professionale, il servizio civile è caduto un po' in disuso per vari motivi. Ci spieghi un attimo da dove partiamo? Beh sì, partiamo da un contingente per l'anno 2014 di 15.000 giovani, che significa praticamente ridotto al lumicino rispetto ai 75.000, ai 100.000 delle prime fasi del servizio civile, diciamo post obiezione di coscienza, perché quello di cui, a cui lei faceva riferimento, certo, è il momento in cui l'alternativa al servizio militare di leva obbligatoria era l'obiezione di coscienza. Ecco, quando fu istituito il servizio civile nazionale aveva dei numeri molto elevati, adesso sono ridotti a molto poco, perché comunque sia c'è un valore economico, c'è un investimento da dover fare che non è ingente, non è particolarmente significativo, ma comunque esiste, ogni legge di stabilità sì, ha levato risorse. Ma chi deve coprire le spese che comunque ci sono per garantire questo servizio civile? Perché i giovani, questi 15.000 che adesso sono in forze, hanno comunque chiamiamolo un rimborso spese, un mini stipendio di quanto? Intorno ai 500 euro, ecco, per un impegno che non copre più di metà giornata per 8-10 mesi. Quindi possiamo considerarlo un mini stipendio, insomma, un pochino più di un rimborso spese, visto che si tratta quasi di un part time, meno di uno stipendio, un mini stipendio. Però questi soldi non sempre ci sono, e quindi è anche questo il motivo per cui non si riesce a coprire tutte le richieste, o sbaglio? Esatto, il punto di fondo è esattamente questo, ed è la ragione per la quale si vuole rilanciare verso il servizio civile universale, quindi coprirlo per tutti i giovani che ne fanno richiesta, al contrario di quello che è accaduto sin qui, cioè il tentativo di fare un'operazione che sta solo dentro le risorse disponibili. Allora, tutti i giovani che ne fanno richiesta, significa che ci vuole poi un investimento altrettanto. Ci vogliono i fondi per coprire l'iniziativa. Senta Barbieri, ci spieghi però anche perché rilanciare il servizio civile universale nazionale, come ha proposto Renzi? Poi c'è anche la mail per scrivere suggerimenti, io la dico se qualche ascoltatore è interessato: terzo settore, la volta buona, @ cioè lavoro.gov.it, ripeto, terzo settore, la volta buona, @lavoro.gov.it. ognuno può mandare la sua idea. Ci spieghi però Barbieri perché investire nel servizio civile può far girare l'economia, può aiutare per esempio il welfare. Non parliamo solo, diciamo, di un'elemosina da dare a chi fa beneficenza o volontariato, è un fenomeno strutturale quello del terzo settore in Italia, del volontariato. Ma allora c'è un effetto centrale, che è quello di produrre la capacità di giovani di entrare dentro le dinamiche in cui si esercitano le organizzazioni di terzo settore, che non sono solo il welfare, ma anche l'educazione per tutti, ma anche la sostenibilità ambientale, la cooperazione internazionale, lo sport per tutti. Insomma, ci sono tante attività che sono utili a creare legami e opportunità nella comunità in cui si vive, quello che viene detto coesione sociale. Tutto questo è un'esperienza che può portare alla creazione di competenze per i giovani, quelle competenze necessarie per far salire la capacità di questo paese di esprimersi su welfare piuttosto che sullo sport per tutti. Insomma, ci sono tante attività che danno una dimensione economica nuova e innovativa che oggi non c'è e che è considerato solo un costo a perdere, mentre invece ben sappiamo che l'educazione per tutti, piuttosto che lo sport o la cooperazione internazionale, sì, sono un fulcro centrale delle politiche e dello sviluppo di un paese. Ecco, io aggiungerei anche questo, nel senso, agli ascoltatori che magari possono dubitare dell'utilità, ripeto, di questa iniziativa. Non soltanto i giovani hanno la possibilità di fare un periodo di alcuni mesi per mettersi alla prova, perché spesso una delle cose che si sente dire a questi ragazzi: fanno l'università, studiano, fanno dei master, poi vanno a fare colloqui di lavoro. Che cosa hai fatto fino ad ora? Niente, perché il lavoro non c'è, e questo però è una mancanza. Avere fatto invece un'esperienza di alcuni mesi nel mondo del volontariato, a prescindere dal servizio civile nazionale se vogliamo, ma all'interno di quella cornice, anche con un mini stipendio, tanto meglio, può aiutare, ma può aiutare anche lo Stato in quella supplenza di welfare di cui parlava Barbieri, un welfare che costa un po' meno, diciamocelo anche chiaramente, perché quando lo Stato si appoggia al terzo settore spende un po' meno di quello che spenderebbe a farlo lui, e non è detto che i risultati siano peggiori, anzi a volte sappiamo che sono addirittura migliori. Quindi un'altra cosa che però le vorrei chiedere, Barbieri, perché qua si parla anche di riforma del terzo settore e di potenziamento del 5 per 1000, anche questa è una cosa che secondo voi vi sta a cuore, andrebbe messa a posto, perché? Ma per la semplice ragione che oggi un cittadino che sottoscrive il 5 per 1000 non ha la certezza che questo arrivi all'organizzazione per cui l'ha sottoscritto, perché esiste un tetto, un limite massimo di circa 400 milioni di euro, e noi sappiamo che le sottoscrizioni del 5 per 1000 arrivano a circa 500 milioni di euro, per cui quel differenziale è di risorse che lo Stato tiene per sé, pur avendo avuto una sottoscrizione che va, non so, nella direzione di una grande organizzazione o di una piccola associazione di quartiere che costruisce molti più legami e molte più opportunità di quanto sembra. Ecco, recuperare già questa dimensione è importante. L'altra cosa è che al momento della sottoscrizione, al momento del recepimento di quelle risorse da parte del soggetto a cui sono destinate, ci passano due, alle volte tre anni, e questo c'è qualcosa che non funziona in questa dinamica. Insomma, in sostanza, questo è un modo per garantire alle organizzazioni uno spazio di agibilità, di possibilità, che non è legato a un progetto, che non è legato a, ma è legato all'attività in sé che quell'organizzazione promuove, alla credibilità, alla accountability, si direbbe in termini anglosassoni, alla reputazione che quell'organizzazione mette in campo e che la gente conosce sulla scorta di un'esperienza diretta. E quindi è, come dire, un rapporto tra cittadino e quell'organizzazione. E va bene, grazie a Pietro Barbieri, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, grazie per essere stato con noi, buon sabato. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Cari ascoltatori, voi cosa ne pensate di questa proposta, che per ora è tale, di istituire un servizio civile universale nazionale? Tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 800 24 00 24, chiamateci, oltre che per commentare quello che sentite, anche per raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana. In palio i biglietti per il cinema Maps to the Stars di Cronenberg. Allora, andiamo con gli ascoltatori, cominciamo con Francesca, che chiama da Ferrara. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego, Francesca. Buongiorno, allora io ho fatto un anno di servizio civile all'Archivio di Stato di Ferrara, è iniziato nell'aprile del 2013 ed è finito nell'aprile del 2014. Quindi adesso, freschissimo, è appena finito. Sì, esatto, appena finito possiamo dire. E devo dire che è stata un'esperienza estremamente formativa, nel senso che io sto studiando per diventare archivista e bibliotecaria, quindi ho imparato che cos'era la vita di tutti i giorni dell'archivio e anche che cosa si fa effettivamente in un archivio di Ti Stato. Ti è piaciuta come esperienza, oppure hai detto no, non mi interessa, perché magari no, può succedere anche questo? Come esperienza lavorativa è stata splendida, sì, e ho capito che quello deve essere il mio lavoro. Diciamo che però ho compreso nel bene e nel male che cos'è lo Stato, nel senso che c'era una parte di gente che vi lavorava che era assolutamente competente e anzi forse non proprio retribuita quanto avrebbe dovuto, perché per è un'altra parte che invece aveva... all'opposto, esatto, magari. Esatto, vabbè, questo però, Francesca, fa parte appunto delle non so come dire, delle regole del gioco, dello stato di fatto. È così, ne prendiamo atto. Poi esatto, si potrebbe quindi provare a cambiare. È una cosa positiva per i giovani, per capire bene come funziona e poi magari per migliorarlo una volta che ci si entra o che si va in contatto diretto. Non è da sottovalutare, anzi l'ho trovato ottimo. Poche le ragazze comunque che lo fanno, no? Beh, noi eravamo due ragazze, erano due posti ed erano due donne, quindi non so poi in linea generale come fossimo messe. Noi avevamo la possibilità solo di due volontarie, hanno scelto noi due. Va bene, va bene. Grazie Francesca da Ferrara. Avete sentito, tra l'altro, buona giornata, che insomma si può fare il servizio civile in ambiti anche diversi da quello che uno può immaginare, il volontariato nell'assistenza agli anziani o ai disabili, anche nell'archivio di Stato. E quindi, perché no, proprio avvicinarsi a quella che poi è una professione, quella di archivista, per cui Francesca ha studiato. Benissimo. Antonio da Napoli, prego. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Io mi domandavo come può funzionare una sanità. Funziona bene in Italia, per l'amore di Dio, però se la gente non ha una psicologia un po' più tranquilla nel sistema welfare, che non sa se si sveglia la mattina e domani continua a avere la pensione, ce la tolgono, io non so come si può parlare di sanità in questo modo. Antonio, sul welfare lei può avere ragione, però sono due cose diverse. Cioè, lei dice ci vorrebbero le medicine di Stato per tranquillizzare la gente che è in crisi, perché il welfare cambia ogni 5 minuti, soprattutto il tema delle pensioni. Con la legge Fornero le leggi sono state cambiate dall'oggi al domani. Ma lei ha avuto qualche inconveniente in tema di pensioni? Perciò la chiamo. Io ho 41 anni di contributi, tra cui una trentina d'anni in mezzo al mare con le società di navigazione. Ma che le è successo? Le hanno ridotto la pensione? No, non me l'hanno tolto, però mi hanno dato la pensione di invalidità, perché io ho subito 4 interventi alla colonna. Gliel'hanno data o non gliel'hanno data? Non ho capito. Sì, la IOA. Allora, di che si lamenta? Invalidità, non quella dei 41 anni di contributo. Ah, le hanno dato solo le pensioni di invalidità? Invalidità, perché alla fine hanno cambiato la legge. Vabbè, Antonio, in bocca al lupo per le sue vicende personali, grazie comunque per averci chiamato. Vabbè, per la notizia, lo ricordo, è relativa, abbiamo letta in rassegna stampa poco fa, della classifica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla longevità in Italia. L'Italia è uno dei paesi al mondo dove si vive più a lungo, merito anche della prevenzione del sistema sanitario. Di qui l'intervento di Antonio, però più che altro sul tema delle pensioni. Gino da Manfredonia, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno, e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Prego. Io ho 76 anni, ho lavorato 30 anni all'estero e credo di avere una certa esperienza lavorativa. Io auspicherei che finalmente si facesse qualcosa veramente di utile, come la proposta, quella del servizio civile. Il servizio civile organizzato in maniera da poter insegnare un mestiere a un giovane, sarebbe veramente l'eccellenza. Fare un servizio civile e organizzarlo su tutti i mestieri che il ragazzo potrebbe incontrare nel corso della sua vita sarebbe eccezionale. Lei dice non soltanto quindi nell'ambito del terzo settore, cioè del volontariato, dell'aiuto agli anziani o tutto, della ricerca, proprio in generale. Come era una volta il militare, perché il ragazzo, una volta chiamato, inserito però, in un mondo del lavoro che non riuscirebbe a trovare. Ho capito, Gino, però il senso del servizio militare un tempo era quello, diciamo, la missione era la difesa della patria, dei confini, sì, eccetera. No, io lo dico, il servizio civile, aspetti Gino, il servizio civile ha il valore aggiunto, diciamo, di andare a toccare i nervi più deboli, più scoperti, appunto, ripeto, il volontariato, il terzo settore, eccetera. Istituirlo a un'azienda che produce scarpe, che senso avrebbe? Però non si perderebbe un po' quel senso di missione? No, quello che dico io, quello che io auspicherei è un servizio sociale, un servizio civile, come potrebbe essere una specie del volontariato attuale, sì, in modo che il ragazzo possa avere l'opportunità di inserirsi in maniera molto, molto soft, molto leggero, in un servizio civile che c'è, in cui siano comprese tutti i mestieri. Va bene, va bene, Gino, abbiamo capito quello che lei, sì, hanno, sì, sì, sì, abbiamo capito quello che lei ci vuole dire. Questo in realtà si chiama stage, è un po' un'altra cosa, però insomma cogliamo anche il suo suggerimento. 800 24 00 24 dopo il giornale radio, aspettiamo ancora i vostri interventi, a tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Già si vedono lampi all'orizzonte, però nei tuoi occhi io mi salverò. Oh, oh, oh, oh. Già si sentono tuoni aprire il cielo, però grida forte, sai che correrò. Eccoci qua, cari ascoltatori, buongiorno. Prima ero solo, adesso sono in compagnia. Io ne sono felice. Buongiorno, buongiorno a tutti. Hai fatto saltare i microfoni anche oggi, Carlo Gabardini. Chiedo scusa. Il leggero ritardo oggi. Esattamente, chiedo scusa assolutamente a tutti gli ascoltatori, sono in ritardo. Infatti succede, su Instagram succede. Non c'è la mia solita foto. Mi sono un po' tirato sfortuna da solo, perché ieri sono passato nel punto in Piazza della Repubblica, dove faccio sempre la foto prima di venire qua in radio, e ho scattato la foto dicendo in incredibile anticipo su domani Radio 24, si può fare, eccetera eccetera, e infatti in incredibile anticipo, oggi sono in incredibile tanto ritardo, anticipo che non sei proprio arrivato. Esatto, oggi è il 17 maggio, volevo dire solamente questa questo cosa, lo sapevamo. È la giornata mondiale contro l'omofobia. Ma davvero? Quindi sì, in tutto il mondo ci sono, detta anche AIDA HOT, che sì, è l'acronimo di International Day Against Homophobia and Transphobia, o Transfobia anzi vorrebbe dire in inglese, e quindi ci sono manifestazioni in tutto il mondo e anche in tutta Italia. Io sarò a Genova alle 14.30 in piazza De Ferrari. Appena finisco la trasmissione prendo un treno e vado a Genova. E adesso io ti darò una notizia che ti stupirò, perché tu vai alle manifestazioni ma non sai le cose, non sai le notizie che contano. Certo. C'è in Italia la prima squadra di rugby. Lo so bene, lo so, sponsorizzata bene, da Arcigay. La sapevi? Preparato, certo, sono so. I Roosters. Assolutamente sì, è una bella storia, iniziativa. Sì, è una storia bellissima, perché loro volevano partecipare a questa. Guarda, la so anche bene, perché volevo proprio darla come notizia. Ah, fantastico, vedi. E quindi, e beh, oggi giornata contro l'omofobia, l'avrei data domani, e invece a questo punto l'abbiamo già data. È molto bello, loro cercavano dei soldi per partecipare a un torneo, una squadra italiana che voleva partecipare a un torneo in Germania, e un ragazzo ha detto: ma scusate, provate a chiedere ad Arcigay, non era una spesa ingente, quindi sono addirittura sponsorizzate. Questo è molto bello, perché non è la solita, diciamo, sì, fatto di fare una buona azione, o è il fatto che Arcigay ha detto: io sponsorizzo, quindi in qualche modo, nel momento che poi ci sono i soldi, tra l'altro uno può dire è gay o non gay, però questi hanno pagato lo sponsor, e lo sponsor decide. Allora, questo intanto era Neffa con Cambierà, la vostra canzone, il vostro Si può fare, una canzone di Neffa del 2006 che ci ha segnalato la ascoltatore Filippo Lanza, che ringraziamo, così come ringraziamo tutti quelli che ci segnalano ogni settimana su Facebook, su Twitter, le loro canzoni, le vostre canzoni, Si può fare, con cui prima o poi faremo una colonna sonora. Il CD, come si suol dire. Come si diceva una volta, forse. No, perché adesso come si dice? Non so, ci saranno gli MP3, gli MP4, gli MP100 probabilmente. È vero, siamo su quella linea lì adesso. Rodolfo, dalla provincia di Imperia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Niente, io ho sentito la sua trasmissione, però purtroppo ho acceso la radio all'ultimo, e quindi ho sentito solo la coda di questo intervento che avete fatto, che hanno fatto sul servizio civile Ma nazionale. Mi sembrava che avesse parlato di giovani, di cosa fargli fare, eccetera, giusto? Sì, del servizio, della proposta del governo Renzi, di Renzi lui in particolare, di inizio settimana, di fare un servizio civile universale nazionale, cioè di far lavorare una decina di mesi con un mini stipendio nell'ambito del terzo settore i giovani, come già oggi avviene, ma siccome non è finanziata spesso, anzi, sono meno di quello che potrebbero essere questi giovani. Certo. Ecco, cosa voleva dire Rodolfo? Cosa abbiamo ricordato? Io dicevo che secondo me, io all'epoca ho fatto il militare, eppure essendo comunque una cosa a parte, cioè abbastanza negativa, però io ho trovato della positività anche. Quindi dicevo, non fare più il militare perché è una cosa che oramai non serve più, però chi può mandarli nella protezione civile, dove gli insegnano montare una tenda in caso, sì, di problemi, sapere leggere una bussola e magari risolvere dei problemi in caso di necessità come alluvioni e cose del genere, può fare un 6 mesi così sicuramente potrebbe aiutare. Aiutare per eventuali... Poi sa, Rodolfo, secondo me ognuno è anche un po' legato all'esperienza che ha fatto. Lei ha fatto il militare e non si era trovato così male, e quindi adesso evoca uno scenario più che di volontariato nel terzo settore, da protezione civile, quindi comunque un po' di avventura, dico io banalizzando, ma insomma anche un po' di questa vita qua. Chi facciamo? Sentiamo Ileana che chiama da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Ho ascoltato anch'io un po' qua e là, perché le radio non sono le televisioni che ti tengono bloccate, quindi fra una faccenda e l'altra. Comunque la cosa è davvero interessante, questo servizio civile di volontariato, diciamo, anche a livello nazionale. Sì. Io, la mia esperienza è questa, dicevo poco prima, che avendo chiuso purtroppo una mia attività, io ho 60 anni, quindi... Sì. Di esperienze lavorative ne ho veramente toccate molte, poi fra le quali quella del di andare presso famiglie per fare anche del volontariato per quanto riguarda l'aiuto fisico e anche l'aiuto psicologico, perché mi sono ritrovata in mezzo a queste realtà, diciamo. Quello che dicevo poco prima era che questa diciamo retribuzione, che sarà magari minima da parte, sì, del servizio civile, 480 euro, sì, almeno. Sì, va bene, ma magari ad averle, perché quando non ce l'hai sono tantissime. È giusto, Eleana, cioè è un mini stipendio, però non è da buttare via, anche perché per un ragazzo, ora magari nella condizione di un adulto che ha perso lavoro è diverso, ma un ragazzo tra i 18 e i 29 anni, che quindi è all'inizio un po' della sua carriera professionale, avere uno stipendio di 480 euro al mese può significare economicamente anche qualcosa. Si vive a casa con i genitori, cioè è un mini stipendio, qualcosa ci fai, ed è un impegno attualmente, è quasi un part time il servizio civile, quindi è quasi sostenibile anche dal punto di vista economico, quasi. Poi naturalmente va valutato anche l'aspetto così di crescita personale, eccetera eccetera. Va bene, che facciamo? Sentiamo anche un altro ascoltatore velocemente? Sì, signori. O facciamo il traffico, che mi dite? Dai, Sergio da Macerata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, il mio può sembrare un sogno, mi riallaccio agli ascoltatori precedenti e ci metto qualcosa in più. Io penso, faccio una piccola premessa, che da 5 anni noi siamo in guerra. Non è una guerra con le armi, con gli eserciti, però gli effetti sono quasi simili. Ma con chi siamo in guerra? Con l'economia. Con l'economia? Con lo Stato, insomma, è una specie di guerra e ci stanno degli effetti molto pesanti. Quando c'era le guerre, a suo tempo si chiamava, c'era la chiamata di tutti i giovani obbligatoria. Sì, e quindi sì. Oggi arriviamo a con oggi... E quelli lavoravano nei campi, non erano, sì, disoccupati. Sì. Adesso ci sono giovani, milioni e milioni di giovani disoccupati, istruiti. Perciò, secondo me, bisognerebbe fare questo servizio civile obbligatorio. Finché un giovane non trova un lavoro stabile, non deve stare in giro a giocare con le macchinette o fare lavori non si sa con chi. Cioè, le macchinette cosa sono? Scusi, Sergio, cosa intende per macchinette? Le slot. Le slot. Giochi d'azzardo. Ah, ecco. Sì, sì. No, pensavo alle macchinine, le macchinette. No, giochi d'azzardo. No. Cioè, stavi pensando che bisognava iniziare a lavorare molto più piccoli, quando ancora si sta giocando con le macchinine. Non giocare con le macchinine, vai a fare il servizio civile, che c'hai già 9 anni. Ecco, allora, volevo dire... Insomma, lei propone che sia obbligatorio questo servizio civile. Io, tra l'altro, sarei d'accordo con lei. Dico sarei perché ci sono aspetti di complicanza in una proposta del genere, che intravedo. Però io sarei d'accordo. Io l'ho fatto quando era obbligatorio e ne ho un ottimo ricordo e mi è servito personalmente. Grazie, Sergio. Grazie. Adesso facciamo il traffico, poi torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Anche che cosa ha reso bella la vostra settimana? Si vincono i biglietti per andare al cinema. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo insieme, 800 24 00 24. Sentiamo anche Enrica che ci chiama da Inzago. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, io chiamavo per così comunicare solo un pensiero su questo tema del servizio civile, che è quello che il servizio civile serve molto anche agli enti che appunto decidono di usufruirne. In questo senso che soprattutto nelle piccole realtà, comunque i giovani che del servizio civile sono in genere giovani preparati che comunque vengono selezionati, quindi c'è una prassi un po' diversa dalla vecchia obiezione di coscienza per cui l'ente comunque fa una selezione, quindi individua diciamo i ragazzi che poi possono essere più adeguati per il servizio che si mette in bando, diciamo così. E loro sono portatori di innovazione, di energie nuove, di aperture, quindi io volevo così fare il punto su questo tema, cioè l'amministrazione pubblica che è così anche statica per certi versi perché il turnover del personale è bloccato, eccetera, eccetera, vede questi innesti di energia, di competenza e di visione che comunque sono un valore. Ecco, volevo così dare questa piccolo flash. Ottimo. Portatori comunque di competenza e di valore. Cioè quando il servizio civile si fa nell'ente pubblico, prima ci aveva chiamato una ragazza che da Ferrara aveva lavorato in un archivio di Stato e questo è l'esempio. Poi naturalmente quando invece si fa nel privato, nel terzo settore, allora questa diciamo innovazione, queste energie poi vanno a beneficio appunto del terzo settore. Ma tant'è, Enrica. Tu Gabardini cosa hai fatto al servizio civile? Io avrei dovuto fare il servizio civile, però in realtà ho un'esenzione per meriti artistici. Era uscita una legge in quei tempi per cui... Perché tutti cercavano di evitare qualunque obbligatorietà. Io facevo i miei due esami all'università per spostarlo, perché la scuola, l'Accademia d'Arte Drammatica e Teatro non ti permetteva di spostare il militare. Perché e poi ragione, arrivato a quel punto ero in tournée in giro per il mondo e quindi rappresentavo l'Italia in qualche modo in giro per il mondo e quindi mi hanno dato questa esenzione. Vabbè, cioè, aspetto ancora no, credo... come questa non la commento. No, ma ho scritto una lunghissima lettera al ministero che è agli atti, è molto lunga, in cui spiego che nel lavoro dell'attore è molto difficile nel momento in cui tu parti, poi dopo nessuno ti aspetta, diciamo, che però è un problema di un sacco di altre professioni. In realtà non ho ancora nemmeno il congedo, ma credo, guarda, i congedati ci sono per i motivi più svariati, i pochi fortunati che l'hanno avuta, tutti gli altri che li invidiavano, perché comunque si dice poi è una bella esperienza, no? Sia chi ha fatto il militare che in genere, e come me chi ha fatto il servizio civile, però avessi potuto evitarla non l'avresti fatta sicuramente. Ecco perché il concetto di obbligatorietà, io sono d'accordo con l'ascoltatore prima, perché se non è in qualche modo obbligatorio o molto incentivato poi non lo fai. È vero. E invece è un'esperienza formativa utile e quindi sarebbe bello farla. Soprattutto è un'esperienza che secondo me è molto importante, perché io stesso che diciamo tendenzialmente non avrei voluto farlo il servizio militare, però è un'esperienza fondamentale perché per molti giovani ai tempi era l'unico caso in cui andavano a vedere un'altra città, andavano via, e se eri di Lecco improvvisamente scoprivi la Sicilia, e se eri calabrese improvvisamente scoprivi il Trentino, quindi è una cosa fondamentale e univi l'Italia in questo modo qua. Adesso i giovani fra di loro parliamo però di spiagge e mari puliti, perché è iniziata la corsa ai censimenti. Sentiamo. E tornerà la sera tutta per me. Record di spiagge e mari puliti in Italia quest'anno, con 21 nuove ingressi, 269 quelle calcolate con bandiera blu da parte delle Fondazione per l'educazione ambientale in Italia. È il primo di non so se una lunga serie, ma insomma di una serie di censimenti del mare pulito, la notizia è buona perché crescono le bandiere blu e noi siamo felici. Poi adesso cercheremo di capire anche come vengono misurate queste bandiere blu. Buongiorno Claudio Mazza, presidente della Fondazione per l'Educazione Ambientale. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, intanto incassiamo appunto la buona notizia perché c'è una crescita, anche se poi magari uno va al mare e non si accorge molto che il mare è più pulito, per, non so per quale motivo, perché poi ci si lamenta, si pensa sempre, non ci si fida, eccetera. Però diciamolo, le spiagge pulite sono in crescita. Direi proprio di sì. Quest'anno il trend è positivo, come lo è stato anche lo scorso anno. Questo dimostra comunque una crescita di attenzione ambientale su quello che sono i comuni turistici balneari. La crescita quest'anno, che poi vediamo che come comuni sono da 135 passati a 140, no? Per poi 269 spiagge. In realtà poi i comuni sono anche di più, perché con 10 che non hanno riconfermato sono in realtà i 15 nuovi ingressi di comuni, che portano appunto 21 nuove spiagge, quindi una distribuzione poi omogenea di crescita su tutto il territorio nazionale, e questo secondo me è un altro aspetto positivo. Come vengono fatte però queste misurazioni? Cosa viene preso in considerazione? La domanda che tutti naturalmente si fanno per capire l'affidabilità di queste valutazioni? Allora, bandiera blu, Blue Flag, è uno standard internazionale, la FE è presente su 68 paesi, 5 continenti, e questo standard internazionale, questo marchio di qualità ambientale, sì, internazionale, parte certamente dalla qualità delle acque, prende in considerazione solamente quelle che nel calcolo del percentile degli ultimi 4 anni risulta classificata come qualità eccellente. Quindi si parte da questo primo paletto, dopodiché c'è la depurazione, quindi un depuratore adeguato, un terziario, un secondario comunque adeguato al carico, con l'accettamento delle analisi in uscita, gli allacci fognari che devono essere almeno dell'80%, la gestione dei rifiuti e quindi la differenziata, l'assistenza a bagnanti, quindi la sicurezza del bagnante sulla spiaggia, anche lì la gestione differenziata e l'accessibilità per tutti. Qui è passare sempre più all'interno con la gestione del territorio, quindi tutti gli aspetti che vanno a concorrere nella gestione. Però i dati che avete voi a disposizione sono quelli che forniscono naturalmente i comuni, insomma le amministrazioni, non è che andate voi a controllare a vostra volta la differenziata, diciamo. Il cassonetto a vedere. No. Allora, le analisi le analisi ufficiali delle ARPA, quelle che sono del monitoraggio del Ministero della Salute. Cioè, non sarebbe proprio credibile andare a fare i prelievi una tanto, non voglio dire niente, devono essere fatti sempre al medesimo posto, a tempi ben precisi e con regolarità. Sono le analisi ufficiali del sistema appunto di monitoraggio, quelle delle ARPA. Sì, però gli altri dati, tipo l'accessibilità, immagino che sia un dato. L'accessibilità vengono da noi verificati sul ottimo territorio, vengono sempre documentate in fasi istruttoria da fotografie, e tutto quanto questo viene poi accertato, tenendo presente che poi durante il periodo estivo, oltre alle verifiche sul territorio fatte da noi e dal nostro ispettorato internazionale, c'è anche un accordo, ormai sono più di 20 anni, con le capitanerie di porto, che nell'ambito dei loro compiti di istituto verificano lo standard delle spiagge e questo aspetto. Tutte le altre l'altra documentazione che si basa sulle linee guida mandate in via del questionario sono documentate, sono dati ufficiali come il MUD per i rifiuti, che poi noi in fase istruttoria incrociamo come dati con la banca dati, sì, che fanno parte. Una domanda che è una curiosità, insomma, è questa, diciamo, perché i comuni si candidano loro per partecipare a questa, diciamo, a questa classificazione. Allora, per un comune è una scommessa, perché uno si candida, poi se va bene, allora dopo si può dire il comune di alla bandiera blu, eccetera, eccetera. Se va male, tanto peggio, insomma, si rimane in fondo in classifica. È una scommessa che quindi dovrebbe, però, volendo, anche incentivare il numero di adesioni. Ci sono 163 comuni che hanno partecipato. Io non so qual è il totale dei comuni che stanno sulla costa, saranno credo molti di più. Allora, siete soddisfatti di questa cifra che avete raggiunto? Allora, diciamo che il sì e no va inquadrato diversamente il problema. Allora, certamente bandiera blu come procedure, come criteri, è estremamente trasparente, quindi sono messi fuori sul sito, vengono inviati ai comuni, quindi già a priori loro potrebbero farsi dei conti e delle verifiche in casa. Molti, quindi lei dice, chi facendo questi conti vede che non avrebbe la bandiera blu non partecipa. Io vi assicuro che non è una cosa molto semplice mettere sul tavolo gli aspetti positivi e anche quelli negativi. Sì. Chi gestisce e amministra il territorio ha quasi sempre le opposizioni, ha quasi sempre le cose, quindi diciamo si innescano una serie di problemi. Il fatto che sia volontaria come tipo di come tutte le certificazioni, per sì, tutte volontarie, è l'aspetto più positivo, perché non c'è qualcuno che da fuori dice tu sei bravo, tu non sei bravo. Ti impone per forza a prendere atto dei problemi che hai, metterli sul tavolo e puntare a raggiungere degli obiettivi. È solo così che scatta, sì, il meccanismo. No, ma infatti è quello che dicevo anch'io. L'aspetto chiaramente negativo è che non si ha una mappatura completa delle coste, ma questo è un altro aspetto. Senta, però io lo devo dire, allora devo anche ricordare la classifica, perché poi la gente vuol sapere. I numeri. In testa c'è la Liguria con 22, credo, comuni o località premiate. La Liguria, che è piccola, però vabbè, è tutta costa, quindi. Poi la Toscana con 18, che sorpassa le Marche quest'anno a quota 17. Poi l'elenco prosegue con l'Emilia Romagna. Però è vero che spiagge pulite non necessariamente vuol dire spiagge belle, insomma, ecco, questo togliamocelo dalla testa. Magari la Sardegna non è tra le prime, però è un posto dove il mare è meraviglioso. Allora, che la Sardegna abbia un mare meraviglioso, questo è fuori di dubbio. Il problema è oggi il mercato del turismo richiede località sostenibili e il turista deve spingere verso queste località, perché alla fine è il mercato che per forza di cose costringerà tante amministrazioni, anche ancora non culturalmente preparate su certi temi, ad andare in questa direzione. Il fatto che spesso magari località dove c'è un bel mare non hanno ottenuto il marchio di qualità ambientale è legato quasi sempre ad altri aspetti. Può esserci un problema di gestione dei rifiuti, quest'anno, per dire, anche nella località è uscita una località con un mare splendida, ben gestita, cose, hanno avuto un grosso problema di rifiuti che sono usciti. Oppure magari una località della Sardegna che non siamo riusciti a valutare positivamente, che magari aveva un problema che non arrivava all'80% dell'allaccio fognario. Cioè ci sono tanti aspetti che al di là della qualità delle acque, che è fondamentale, però non rientrano nell'ambito di un discorso più ampio di sostenibilità. E oggi va bene, mi sembra chiaro questo aspetto, sì. Si potrebbe anche dire quali sono i nuovi ingressi, giusto per dare un premio al merito: Trebisacce, Cosenza, Gatteo in provincia di Forlì, ma anche Gaeta e Latina, Stefano al Mare, vabbè sono troppe, Pietra Ligure, Chioggia, Caldonazzo, Tenna, sempre provincia di Trento. Vorrei dire che la Lombardia ne ha preso, ne ha preso uno per un lago. Si può dire? Meglio, diciamolo, insomma, qual è? Il lago non te lo so dire, però so che ha preso un vessillo. Intanto salutiamo Claudio Mazza, presidente della Fondazione per l'Educazione Ambientale, per questo rassegna sulle bandiere blu. Adesso prepariamoci, perché insomma inizia la stagione, quindi dovevamo farlo anche noi. E la buona notizia c'è, perché crescono le bandiere blu, sono più dell'anno scorso. Ci fermiamo, 800 24 00 24, torniamo. Svento la bandiera blu. Tra un attimo. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Oh, tra poco è arrivato il momento di Inviati Cercasi, che è la nostra iniziativa, anche l'hashtag che abbiamo scelto su Twitter, e sentiremo il racconto di Ambiente. Sono curiosissimo. Eh sì, invece la parola che abbiamo scelto questa settimana è spreco. Per giocare con noi avete tempo fino a mercoledì per scriverci spreco, uno dei problemi della nostra attualità. Tutto quello che si spreca è un costo per le tasche dei cittadini, è un costo anche per l'ambiente in termini di rifiuti, poi è un costo anche per la collettività. Insomma, bisogna mettere da qualche parte i rifiuti. Tutto quello che si riesce invece a recuperare, cibo, alimenti, medicinali, è una buona notizia. E noi aspettiamo che ci scriviate, si può fare radio24.it, avete tempo fino a mercoledì. Adesso sentiamo ancora un ascoltatore, va Franco da Pistoia, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Beh, io sono perfettamente d'accordo con il servizio civile per i giovani. Ah. In quanto prima di tutto è un'opportunità e un modo per rendersi utile in un momento come questo, dove insomma ci sono tanti giovani che non trovano lavoro. E in secondo, ci sono tantissime cose che potrebbero fare, come per esempio l'avvistamento incendi d'estate. Ora stiamo andando in un periodo molto particolare, e la pulizia delle spiagge, dei boschi, queste sono cose che secondo me andrebbero già insegnate nelle scuole. Sarebbe molto utile anche il rispetto per l'ambiente, che purtroppo oggi molti giovani non... Vedo che va bene il tema anche della protezione civile. Adesso Franco ci invitava a questa cosa dell'avvistamento incendi d'estate. Comunque lei dice, Franco, il tema della protezione civile, insomma, un po' dell'intervento sul territorio, queste cose qua. Ma chiaramente anche insomma l'assistenza agli anziani, sì, questo sì. Qui è sicuramente una cosa molto, molto importante. Bambini disabili, ci sono famiglie con bambini disabili che... tutti questi temi qua, va bene, grazie Franco. No, però è forte anche questo tema qua della cura del territorio, è già la seconda telefonata che lo sottolinea. È un buon ramo per il servizio civile, direi, sì, quello proprio. Sì. Adesso è il momento, Inviati Cercasi. Perché è una nostra, è una ragazza inviata di oggi, è Alice Bellincioni. Buongiorno Alice. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Alice. Che nella vita, oltre a fare l'inviata per Si può fare, nel resto del tempo che cosa fa? Ma diciamo che vorrei diventare una giornalista ambientale, ma... Sì. Ci stiamo lavorando. Perfetto, porterai via il mio posto qui, che sono lo stagista di Si può fare. E secondo me te lo meriti tutto. Adesso vediamo. No, no, e esatto. Ricordiamo. Era anche sulla fiducia, perché non so niente in realtà. Quindi... Così, per il tono di voce, sì, sì. E anche per la notizia. Ricordiamo anche a tutti gli ascoltatori, a chi ha partecipato, sta partecipando, parteciperà al gioco Inviati Cercasi, che alla fine il racconto più bello, la notizia più bella selezionata da noi vince anche un soggiorno responsabile, quindi una mini vacanza offerta da EcoTube. Mica male di questi tempi. No. Alice ci ha segnalato, direi che è più pagata di molti altri giornalisti, esatto. Come notizia, un centesimo ho al sentito pezzo. Di persone, esatto, che prendono 3 euro a pezzo. La notizia questa volta è un'iniziativa, un festival ambientale in Lombardia. Alice, racconta. Sì. Tu dunque, appunto, io vi parlerò oggi di un'iniziativa che a mio giudizio è molto bella e interessante, e si tratta, come avete detto, di un festival, il Terraforma Festival, che è un festival sostenibile, ma un festival primariamente musicale, che quest'anno è alla sua prima edizione, ma è già stato inserito da Resident Advisor nella top 10 dei festival più interessanti del mese di giugno a livello mondiale. E si svolgerà nel bosco della Villa Arconati di Bollate, quindi in provincia di Milano, dal 6 all'8 di giugno. Interessante perché a portare avanti questa iniziativa sono stati tre giovani, poco più grandi di me, sono tutti under 30, anzi under 27 per la precisione, che all'inizio del 2012 hanno fondato l'associazione culturale no profit Trees, che è una crasi che sta a indicare tre alberi. Ok, Trees, certo, perfetto. E lo scorso anno l'associazione ha deciso di portare avanti questo progetto, che è molto ambizioso perché diciamo loro si aspettano una partecipazione di 1500 persone, ma soprattutto sono riusciti a portare in Italia 20 artisti per lo più internazionali di grandissima caratura, tra l'altro generi musicali che variano, ce n'è veramente per tutti i gusti. Perché ve ne parlo come notizia di ambiente? Perché questo festival è un festival totalmente autoprodotto, non hanno sponsor, e è interessante per la logica che sottostà alla sua produzione. Cioè, questi ragazzi hanno sposato un modello che è quello della startup culturale, fondamentalmente cercando di superare quella logica che sappiamo in Italia essere molto diffusa, secondo cui la cultura è sempre in perdita, necessita per sopravvivere di sponsor. Con la cultura non si mangia, disse Tremonti, eccetera. Invece loro hanno voluto credere al fatto che un festival culturale di qualità potesse non solo reggersi sulle proprie gambe, ma potesse rappresentare anche un'opportunità di lavoro e di crescita per il territorio. Giusto. Ma soprattutto per i giovani. E come dicevamo, è un festival sostenibile sia da un punto di vista ambientale, e qui è sicuramente degno di nota il fatto che si tratta di una sostenibilità ambientale non di tipo esclusivamente passivo, cioè loro non vogliono semplicemente, diciamo, pareggiare i conti con l'ambiente, sì, ma vogliono arricchirlo, e l'hanno fatto come? L'hanno fatto riqualificando questo bosco che ospiterà il festival, che era prima totalmente inagibile. Eccolo, questa è la cosa bella. Sì, perché la sostenibilità sull'ambiente è Alice fatto del ci ha bosco, messo un po' ad arrivare, però giro, ha creato la suspense e adesso sta menando il fendente. Hanno recuperato un bosco di quanto è grande questo bosco? Sono 4 ettari, loro ne hanno qualificati 2 e l'anno prossimo vorrebbero riqualificare gli altri 2 ettari. Quindi un festival che vive proprio nella concretezza, nel fatto che insomma anche gli abitanti, i residenti della zona si saranno accorti di questa cosa, e quindi andare a questo festival non è come andare ad una rassegna qualunque, ma è proprio entrare anche nel vivo di qualcosa che lascia un'eredità ambientale bella, insomma, importante. Perché il bosco poi sarà aperto a tutti. Noi potremo andare, per cui è una grande notizia per i milanesi, perché resterà come parco pubblico. Ma non c'entra nulla quella zona dove avevano messo i ministeri del nord, il ministero del nord, non era quella? No, non era Villa Arconati. No, non credo. Penso facciano altri festival a Villa Arconati, ma nella parte. No, mi ricordavo. Vi ricordate l'epoca dei ministeri al nord? Li avevano sistemati in qualche villa dalle parti. No, ma era Villa Reale a Monza. Bravo, ho sbagliato villa. Vabbè. No, figurati. No, non avevevo capito. Tu che sei di zona, esatto, hai potuto precisare. Sono di Milano, non sono di Monza. Ma insomma. Alice, vuoi aggiungere qualcosa a questa notizia che ci hai raccontato mirabilmente? Prima di salutarci. Secondo me altre cose interessanti, poi non so quanto tempo io abbia ancora, sono sicuramente il modo con cui sono stati portati avanti i progetti. Hanno organizzato questi ragazzi tre workshop a cui hanno partecipato studi di giovani architetti, ma soprattutto studenti del Politecnico di Milano. Ma li hai conosciuti personalmente? Io sì, li ho entriamo nel vivo dell'inviata, diciamo. Sì, li ho incontrati. Ma li conoscevi già prima? No, non li conoscevo prima. Quindi hai proprio fatto l'inviata, hai detto questa mi sembra una bella notizia, li contatto. Lei vuol fare la giornalista ambientale, quindi giusto. Si muove nel modo giusto. Alice, noi dobbiamo fermarci qua perché abbiamo il traffico, poi ancora qualche cosa da espletare prima della fine del programma. Però grazie per averci raccontato questa notizia. Restiamo in contatto e per adesso hai vinto Terraforma Festival. E ci vediamo al Terraforma Festival, esatto, tra il 6 e l'8 giugno a Villa Arconati. Grazie. Va bene, grazie mille. Voi. Ciao. Beh, insomma, un festival che è, diciamo, il coronamento della riqualifica di un parco, non mi era mai capitato di sentirlo. Bello. No, no, molto bello, molto bello. È vero che ha tenuto in coda la parte ambientale della notizia, l'ha tenuta in coda. Prima sembrava che la sostenibilità fosse il fatto che i ragazzi non potessero anche sostenere economicamente il festival. Non però so se con mestiere oppure con un po' di ingenuità, nel senso che il meglio l'ha messo in fondo. Io propendo per il mestiere. Benissimo. Alice, questa era Alice, Traffico. E non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio è in venire. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. Vedo stelle che cadono nella notte dei desideri. È una notte come tutte le altre. Dei desideri può anche essere, se il desiderio è il desiderio di conoscenza, di approfondimento culturale, anche di un certo intrattenimento, può essere anche la notte dei musei. Certamente sì. Che si svolgerà questa notte. Ragazzi, è importante, si può andare in tutti i musei, iniziativa europea, si può andare in oltre 30 paesi europei, ma restando all'Italia, in tutti i siti museali statali, ma anche se poi c'è stata la polemica sul Colosseo, che è un sito museale, sembrava che non riuscissero a tenerlo aperto per le resistenze dei sindacati, poi hanno trovato un accordo, però ci si può entrare solo in 3.000 e su prenotazione, quindi il Colosseo teniamolo da parte. Hanno già prenotato questi 3.000, immagino, online, dal Marocco. Non lo so, sarebbe interessante. Dalla Spagna, da New York. Al costo di un euro. Noi abbiamo selezionato un museo particolare tra i tanti, il Museo della Chimica Primo Levi. Che partecipa a un museo con delle iniziative per bambini. Allora, il Museo della Chimica, uno dice: ma che cosa si può museare? Sentirlo così, perché possiamo dire che il sabato mattina non è proprio il massimo della gioia. Però invece, chi lo sa, invece magari è un posto straordinario. Saremo sorpresi da Mario Barteri, buongiorno, che è il direttore del Museo di Chimica Primo Levi di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Perché buongiorno, può essere attraente e attrattivo venire al Museo della Chimica? Guardi, io... Dunque, devo dire una cosa, innanzitutto vi ringrazio di questa opportunità proprio di parlare del Museo di Chimica e di quanto la chimica poi possa essere in realtà interessante. Anche perché è facile pubblicizzare musei, quelli non so, certo, quelli più facili, no? Con le foto, i quadri, certo. Il Museo della Chimica. Sì, sì, senta, il fatto è questo, che la chimica per molti di noi, per me no ovviamente, ma per molti è un problema, soprattutto a scuola. Per me, mi candido io che sono lo stupido dei due. No, ma mi aggiungo. Sono assolutamente in chimica, andavo malissimo. Esatto, perché è sicuramente una materia ostica, però c'ha un fascino molto particolare. Guardi, io le dico che il Museo di Chimica questa notte rappresenterà proprio la parte ludica, la parte più divertente, anche se molto rigorosa, dello studio della struttura della materia. Quindi esperimenti, si potrà mettere le mani in pasta, cosa succede? Sì, noi faremo degli esperimenti, li faremo noi gli esperimenti. Anzi, guardi, mi preme di dire una cosa, il nostro pubblico migliore saranno i bambini. Noi abbiamo avuto quest'anno, da marzo ad oggi, abbiamo avuto circa 2.000 studenti delle scuole di ogni ordine grado che sono venuti a visitare il Museo di Chimica. A fare corsi di recupero. Ma volontari o portati dalla scuola? Portati dalla scuola, e questi ragazzi, i migliori tra questi studenti sono i bambini delle elementari e delle scuole medie inferiori. Ma cosa farete stasera? Diciamolo così per invogliare un po'. Ci immaginiamo dell'idrogeno noi, così, non lo so, del sodio. Sì. Che cosa fate? No, stasera faremo un bellissimo spettacolo dedicato ai bambini in primissima serata, in modo tale che poi possano andare a dormire, e sarà una favola raccontata da un nonno chimico, che i cui personaggi sono degli elementi, delle basi, e quindi sarà una cosa molto bella che utilizzando la favola riuscirà a dare dei concetti fondamentali di chimica. Il messaggio che io voglio lanciare è proprio questo, che la chimica è una materia, oltre che difficile, ostica e qua, ma questo si potrebbe risolvere, voglio dire pure che la chimica è pericolosa quanto per esempio guidare l'automobile. Quindi maneggiare con cura la chimica e prima di maneggiarla recarsi in visita al Museo della Chimica Primo Levi di Roma. Grazie, siamo davvero in chiusura. Mario Barteri, che ne era il direttore, andate stasera in tutti i musei italiani per la notte dei musei, approfittatene. Noi ci fermiamo qua, ringraziamo Andrea Piana che ha scritto con noi il programma, Giorgio De Luca in redazione, autore insieme a noi di questo programma, Peter Bescapè in regia. Ci sentiamo domani.